frappe il vostro mar. Oh madre di Siora, prega per il marinar. E quando il vascello dall'ancora si staccò, col pianto la mia fanciulla mi salutò. Bella se il mar mi inghiotta, tu vedi a sera una colomba bianca venir leggera. Aprile il tuo balcone, mandarla via, che star forzando con l'anima potria. No può lieto cantar Gaio è il marinar, quando la fronte la prezza carezza, lieve si increspa il mar. No può lieto cantar Gaio è il marinar, quando la fronte la prezza carezza, lieve si increspa il mar. Al fi giunti siamo a terra, mio Dio mercè. Mia madre già scorto arriva, ma sola è lei. Che fu e la tace prendemi sola ma tremante con sé m'attira di na lontan. Ah, che veggi una tomba e poi più nulla. La colomba bianca è la mia fanciulla. Ehi, merinar, tu dormi alla guardia muta. Ah, sogno fu padron, non l'ho perduta. No può lieto cantar Gaio è il marinar, quando la fronte la prezza carezza, lieve si increspa il mar. No può lieto cantar Gaio è il marinar, quando la fronte la prezza carezza, lieve si increspa il mar.